Il Sole 24 Ore. Napoletano nel giorno della festa dell'8 marzo, la disoccupazione e un lavoro precario impediscono alle donne di avere figli e costruirsi una famiglia. Nuovi arresti per la strage di Via D'Amelio e a Reggio Calabria 34 assoluzioni, 90 condanne nel processo Crimine. Lo spread BTP Bund cala sotto i 300 punti base, occhi puntati sul concambio dei bond di Atene. La Cina blocca gli acquisti di Airbus come rappresaglia alla tassa europea sulle emissioni di CO2. La mancanza di un reddito sufficiente e stabile, di un'occupazione non precaria e bassamente retribuita, preclude alle giovani donne la costruzione di una famiglia restando in Italia. Non c'è da stupirsi quindi se nel nostro paese a un tasso di occupazione femminile poco soddisfacente si accompagna un tasso di natalità tra i più bassi in Europa. Le parole del capo dello Stato Giorgio Napolitano nel giorno della festa della donna: difficoltà nel trovare un lavoro, difficoltà nel pretendere stesse condizioni di stipendio e carriera dei colleghi maschi al centro della giornata al Quirinale nel giorno dell'8 marzo. Torneremo a parlarne in apertura della seconda parte di GR24. Ora invece torniamo sulle novità nell'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio. La procura di Caltanissetta riscrive il contesto in cui è maturato l'attentato a Paolo Borsellino e ottiene dal GIP, che ha firmato 4 ordinanze d'arresto, l'aggravante dei fini terroristici. Il mandato di cattura ha raggiunto in carcere il boss Salvatore Madonia, accusato di essere uno dei mandanti della strage, assieme con 2 esecutori materiali, Vittorio Tutino e Salvatore Vitale. Arrestato anche l'ex collaboratore di giustizia Calogero Pulci, deve rispondere di calunnia. Le indagini si sono avvalse delle dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza, fedelissimo dei fratelli Graviano, che si è autoaccusato del furto della 126 che venne imbottita di tritolo e fatta brillare in Via D'Amelio. Prima di lui aveva detto di averla prelevata Salvatore Candura, uomo chiave della prima parte di indagini, che però non era mai stato condotto sul posto in cui l'auto era parcheggiata prima di essere prelevata. Durante il sopralluogo disposto solo adesso dalla procura di Caltanissetta, Candura non ha saputo dire dove l'auto si trovasse. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora sentiamolo, il procuratore di Caltanissetta Sergio Lari, al microfono di Monica Ceravolo. Si è accertato che la scelta di Cosa Nostra di agire in maniera così eclatante attraverso l'uso di esplosivo corrispondeva anche all'intento di terrorizzare appunto la popolazione, un fine terroristico che nascondeva dietro di sé anche l'intento di poter attuare una trattativa, diciamo, con le istituzioni. La morte di Paolo Borsellino è stata provocata, comunque accelerata, dal fatto che lui fosse venuto a conoscenza della trattativa. Questa è una delle svolte dell'inchiesta. Emerge che Paolo Borsellino fu informato dell'esistenza della trattativa e sicuramente si oppose alla possibilità che si potesse trattare tra Stato e Cosa Nostra, anche perché sul tavolo della trattativa viene anche la revisione dei processi, concedere al maxi processo di cui lui e Falcone erano stati protagonisti. Ci sono dichiarazioni sia della moglie che di alcuni suoi stretti collaboratori, parlano di momenti di scoraggiamento, di sfoglia, o di Borsellino che si sentiva tradito da qualcuno. Si sa chi è? No, noi da questo punto di vista non abbiamo potuto dare con certezza un volto e un nome, abbiamo soltanto dei sospetti. L'ipotesi su Branni? È un sospetto. Antonio Subranni, di cui sentivate, ex maggiore dei Carabinieri di Palermo. Nel 90 la guida dei ROS dei Carabinieri cattura il boss Totò Riina. In seguito ha scalato tutte le vette dell'arma fino al titolo di generale. È inoltre indagato per depistaggi durante le indagini sull'assassinio di Peppino Impastato. E stamattina è arrivata un'altra importante notizia: la sentenza del cosiddetto processo Crimine, in diretta da Reggio Calabria Filippo Veltri. Filippo. Buongiorno a voi. Come dicevate da studio, si è conclusa la parte, diciamo, calabrese. Quella milanese era già andata a giudizio nei mesi passati del processo Crimine, un'operazione del luglio di 2 anni fa che portò all'arresto di centinaia e centinaia di persone fra Calabria, Lombardia e anche altre zone d'Italia. La sentenza di Reggio Calabria: ci sono state oltre 90 condanne e 34 assoluzioni, è stata emessa dal GUP di Reggio Calabria. Sostanzialmente il primo commento della procura antimafia di Reggio Calabria, che è retta ancora per pochi giorni dal procuratore Giuseppe Pignatone, che il 19 marzo prenderà possesso della sua nuova sede a Roma, il commento della procura, dicevo, è di soddisfazione, nel senso che pur essendo state diminuite alcune richieste fatte in sede di accusa, viene riconosciuto dal GUP di Reggio Calabria l'unitarietà del fenomeno mafioso e l'esistenza dell'andrangheta. Il capo Cosca, diciamo, il custode delle regole dell'andrangheta, che era Domenico Oppedisano, è stato condannato a 10 anni, la procura ne aveva chiesto 20, condannati anche altri capi Cosca della zona della Locride e della città di Reggio Calabria. Grazie a Filippo Veltri, dunque, da Reggio Calabria. E noi veniamo invece a Milano, perché fra poco ci sarà una riunione in via Bellerio dei vertici leghisti per fare il punto sull'indagine che riguarda il presidente del Consiglio regionale Davide Boni, indagine su cui arrivano nuovi particolari. All'interno dell'amministrazione regionale della Lombardia ci sarebbe un sistema PDL Lega basato su una rete composta da ex assessori e imprenditori che pagavano tangenti per ottenere facilitazioni su progetti in campo immobiliare e commerciale. Su queste ipotesi si stanno muovendo le indagini dei magistrati della Procura di Milano, che in questi giorni hanno inviato un avviso di garanzia al presidente del Consiglio regionale della Lombardia ed esponente della Lega Nord, Davide Boni, accusato di corruzione, e al suo collaboratore Dario Ghezzi. Nell'inchiesta sarebbero coinvolte una 20 di persone, tra cui gli imprenditori Luigi Zunino e Francesco Monastero, che avrebbero pagato, promesso di pagare, tangenti all'ex assessore all'edilizia e al territorio. Si parla di buste di soldi consegnate attraverso l'architetto Michele Oiola, già coinvolto in altre inchieste. E proprio sulla possibile sovrapposizione di alcune indagini che i magistrati stanno cercando di fare chiarezza, come sui possibili collegamenti con quella che nei mesi scorsi aveva portato all'arresto di un altro membro dell'ufficio di presidenza della regione ed ex assessore in quota PDL, Franco Nicoli Cristiani. Flavia Carletti da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore. La pagina economica, lo spread BTP Bund cala sotto i 300 punti base minimi dal 1 settembre fino a toccare 293 punti. Intanto sono in rialzo le principali borse europee, occhi puntati sull'esito dell'offerta di concambio sui titoli della Grecia. La scadenza è stasera alle 21. Allora sentiamo dal nostro Vittorio D'Arold come sta andando, Vittorio. Sì, sta andando abbastanza bene, c'è un certo ottimismo. Perché? Perché i 206 miliardi di euro che appunto sono frutto di questo swap, al 14% sono in mano a bond holder, come si dice, internazionali, ma all'86% sono sotto legislazione greca, e la legislazione greca ha una soglia molto più bassa, basta appunto i due terzi dei votanti, cioè un quorum del 50%, quindi servirebbe il 33% di accettazione perché le clausole, le famose clausole sui bond nazionali scattino, e sono già arrivati al 53%, quindi in qualche modo la gran parte di questo swap per la parte greca è già riuscito, è già in posizione, diciamo, di poter fare le famose riduzioni del debito da 206 a 100 miliardi di euro. Resta l'incognita dei cosiddetti bond holder internazionali, fra cui ci sono anche i risparmiatori italiani. Grazie a Vittorio D'Arold, staremo dunque a vedere, ma la sensazione è che la Grecia ce la faccia. Dura reazione cinese alla decisione europea di imporre una tassa sulle emissioni di anidride carbonica alle compagnie aeree che transitano negli aeroporti dello spazio europeo. Qui con noi Gigi Donelli ci racconta tutto. Sì, buongiorno Piera, un saluto agli ascoltatori. Queste sono notizie invece che non fanno tanto bene all'economia, perché la questione, come hai detto, è una reazione alla tassa che il commissario europeo per l'azione per il clima, che è Connie Hedegaard, forse la ricordate, era la padrona di casa della conferenza COP15 in Danimarca, appunto per l'ambiente, che non andò in porto. Dunque il suo impegno è ridurre le emissioni all'interno dello spazio UE, impone una tassa. La reazione non solo della Cina è forte e di contrarietà, naturalmente, perché sono rincari ancora per i vettori, ma la novità è proprio questa notizia, cioè la Cina blocca di fatto gli acquisti di Airbus. E che cosa significa? Significa attualmente qualcosa come 45 macchine, 10 delle quali sono i grandi A380, quindi il fiore all'occhiello dell'industria europea. Si parla di circa 9 miliardi di ordini in ballo. Tra l'altro è curioso, perché se voi avete voglia di aprire anche China Southern Airlines, che è il più grande delle compagnie aeree cinesi, trovereste proprio l'A380 in bella vista, e un messaggio che dice venite a sentire la differenza e la qualità dell'ambiente con cui noi cinesi vi portiamo in Cina. Insomma, una questione eminentemente economica e probabilmente risolvibile in termini di trattative e appunto discussioni, di sicuro una nuova sfida sul fronte ambientale che vede un commissario europeo rappresentare un'avanguardia del continente e la preoccupazione di tanti su quanto possa costare questa migliore qualità della vita. Grazie, grazie a Gigi Donelli. Air France KLM non ha in programma di acquisire il controllo di Alitalia attraverso acquisti di quote azionarie o altre operazioni finanziarie, lo ha detto il presidente e amministratore delegato del gruppo francese Jean-Cyril Spinetta. Non c'è assolutamente niente di questo tipo in preparazione, ha detto, e così quindi ha parlato Spinetta. Presentato questa mattina il piano strategico 2012-2016 e i risultati consolidati del 2011 da parte dell'Enel, in diretta da Roma, Jacopo Matano. Sì, con un calo del 5,5% del risultato netto e un aumento dei ricavi dell'8,4%, Enel ha chiuso il 2011. Dati definitivi dell'anno, il piano 2012-2016, illustrati dall'amministratore delegato Fulvio Conti, evidenziano anche una diminuzione dell'utile netto del 7% rispetto al 2010. I risultati molto soddisfacenti e in linea con gli obiettivi ha parlato Conti, annunciando la strategia con lo sguardo ancora puntato sui mercati emergenti. Est Europa in particolare, io penso alla Russia, penso alla Slovacchia, penso alla Romania, come paesi che comunque hanno consumi crescenti di energia e un posizionamento strategico nei vari mercati in cui si affacciano. Penso anche ai paesi del Sud America. Tra i target per il 2016 l'utile netto del gruppo a 5 miliardi di euro. A voi. Grazie, grazie a Jacopo Matano. Parlare male della Fiat significa far odiare il prodotto, e se l'opinione pubblica odia la Fiat non compra auto prodotte in Italia, ciò comporta la chiusura di fabbriche. Quanto scrivono operai della Newco Fabbrica Italia Pomigliano e cassi integrati del gruppo Fiat dello stabilimento in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio. Anna Marino ha chiesto da dove parte l'iniziativa. Giuseppe Farina, segretario generale FIM CISL. È un'iniziativa spontanea da parte dei lavoratori di Pomigliano, ma è un'iniziativa assolutamente condivisibile, perché davvero c'è stata una faziosa e un po' vergognosa campagna diffamatoria degli accordi sindacali in Fiat e della stessa Fiat. Questo da parte soprattutto di una parte del mondo della stampa, ma in particolare di alcuni talk show televisivi, che davvero hanno di fatto, diciamo, dato un'informazione politica più che un'informazione industriale, più che un'informazione, diciamo, legata al reale progetto industriale che la Fiat ha messo in campo. L'informazione dovrebbe quindi concentrarsi più sul lavoro, rimettere al centro il lavoro. Deve rimettere al centro il lavoro, deve rimettere al centro i fatti veri, cioè quando adesso scopriamo che l'accordo di Pomigliano non è diverso da migliaia di altri accordi che anche la FIOM ha firmato, allora è chiaro che vuol dire che sul tema Fiat si è determinata un'alleanza politica tra una parte del mondo dei media e una parte della politica e la FIOM stessa. Napolitano, nel giorno della festa dell'8 marzo la disoccupazione e un lavoro precario impediscono alle donne di avere figli. 9 arresti per la strage di Via D'Amelio e a Reggio Calabria 34 assoluzioni, 90 condanne nel processo crimine. Lo spread BTP Bund cala sotto i 300 punti base, occhi puntati sul concambio dei bond di Atene. E ripartiamo, come vi avevamo annunciato, dalla festa della donna al Quirinale, la cerimonia con il presidente Napolitano, in diretta con noi Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, lungo e appassionato intervento quello del capo dello Stato a favore delle donne, un accorato appello affinché si acceleri per rendere effettiva la parità e il loro accesso al mondo del lavoro. Le donne sono il motore dello sviluppo e della crescita, ha detto Napolitano. I bassi tassi di occupazione femminile sono il punto di debolezza dell'economia italiana. Un aumento invece delle donne lavoratrici determinerebbe una crescita del PIL. Troppo oneroso l'impegno che grava sulle donne, di cui la rinuncia da parte di molte di loro alla maternità, ma sentiamo un passaggio del suo intervento. La mancanza di un reddito sufficiente e stabile, di un'occupazione non precaria e bassamente retribuita, preclude alle giovani donne la costruzione di una famiglia restando in Italia. Non c'è da stupirsi quindi se nel nostro paese a un tasso di occupazione femminile poco soddisfacente si accompagna a un tasso di natalità tra i più bassi in Europa. per il capo dello Stato occorre evitare di trattare questi temi solo dal punto di vista del ritorno economico, perché una comunità che non genera figli segnala un profondo malessere, una rassegnazione al declino. Conciliare lavoro e famiglia è il nodo centrale che il Paese deve affrontare per avviare la crescita, ha detto anche il ministro del welfare Fornero, ma in Italia c'è ancora molta strada da fare. Sentiamo un passaggio del suo intervento. Anche quando lavora, la donna assume molto spesso un ruolo secondario in ambito familiare. A parità di livello di istruzione, le retribuzioni femminili sono di regola più basse di quelle maschili, così come le carriere femminili hanno uno sviluppo assai più rallentato di quelle maschili. Per il ministro poi occorre intervenire contro la pratica delle dimissioni in bianco, ma anche estendere le quote rosa già previste per legge e per le società quotate in borsa alle partecipate pubbliche. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Stamattina io e molte colleghe stiamo lavorando come tutti i giorni. Ebbene, cosa succederebbe se un giorno invece tutte insieme non venissimo a lavorare? Che ne direbbero i nostri colleghi maschi? Un esperimento oggi in Germania. Quante siamo, dove siamo, cosa facciamo? Ve l'immaginereste un mondo del lavoro senza donne? Ancora troppo poche, si dice spesso, poco pagate, poco utilizzate, poco gratificate. E allora immaginiamo di far scomparire per un giorno le lavoratrici femminili. Come in una bolla, niente colleghe in giro, niente di niente. Una provocazione lanciata dalle giornaliste della redazione online della tedeschissima Bild. Oggi, nella sede del quotidiano più venduto in Germania, lavorano solo uomini. Le donne tutte a casa per un giorno. In massa hanno chiesto per oggi un giorno di ferie. E l'insolita richiesta si è trasformata in un'assenza in massa, assordante, o meglio, silenziosa. Che sospiro di sollievo, magari penserà qualcuno. Ma poi, in questo modo vogliamo capire quanto ci mancano le donne. È stato l'appello dei colleghi maschi che hanno lanciato anche un sondaggio online ai lettori. A rispondere però le colleghe donne non ci saranno. Toccherà a loro spiegare. Una città senza donne, una città senza amori, porta fortuna. Una città senza... Anna Migliorati, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è dedicato al mercato delle mimose il nostro appuntamento di oggi sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. 1,5 milioni di tasse in meno. E stiamo parlando solo di Milano. L'associazione Fioristi del capoluogo lombardo, in occasione della festa della donna, oltre che preparare le mimose, ha preparato due conti e ha stimato in 500.000 i mazzetti abusivi di mimose che ogni anno vengono venduti in città l'8 di marzo, il che vuol dire appunto un mancato introito fiscale di 1,5 milioni di euro, tutta IVA non pagata. Così la presidente dell'associazione, guarda caso una donna, ha preso carta e penna e ha scritto al sindaco, facendogli notare che l'abusivismo procura un danno ai concorrenti onesti, ma anche alle casse dello Stato. Un'iniziativa simile è stata presa anche dai rappresentanti dei fiorai a Torino, i quali spiegano che anche a causa delle mimose selvagge, il 20% dei negozi di fiori ha chiuso negli ultimi anni. Certo, mimosa o non mimosa, questo è anche il paese dove i titolari di un negozio di fiori, dove magari si arriva a pagare una rosa anche 10 euro, poi dichiarano in media appena 12.000 euro lordi l'anno, neanche 1.000 euro al mese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vasta operazione internazionale contro la pedofilia online, scoperta una rete mondiale con ramificazioni in 28 paesi. Il fondatore è italiano. Serpeggiavano tra social network e siti online una rete mondiale di pedofili che la Procura della Repubblica di Firenze ed Eurojust hanno stroncato con l'operazione Nanny, partendo dalla testa, un fondatore italiano che era riuscito a infiltrarsi in 28 paesi, tra cui Francia, Portogallo, Belgio e Stati Uniti. Oltre 700 adepti, migliaia di frequentatori sparsi in tutto il mondo aderivano attivamente al social network oscurato che aveva il server a Dallas in Texas, immettendo foto e video pedopornografici anche prodotti da loro, e si erano registrati fornendo generalità personali, account di posta elettronica, nonché sottoscrivendo un documento in cui accettavano addirittura consapevolmente di iscriversi e partecipare a una rete dedita alla pedopornografia. Sul social network però agivano con nickname. 10 gli arresti in Italia, Stati Uniti, Francia e Portogallo, 112 gli indagati. L'inchiesta è nata un anno fa dalle denunce di telefono arcobaleno e ha visto lavorare fianco a fianco il nucleo interforze investigativo telematico di Siracusa con i colleghi statunitensi di NCIS. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Giappone in ripresa un anno dopo terremoto e tsunami. Decisamente poteva andare peggio. L'economia giapponese nell'anno dello tsunami e della crisi nucleare ha retto abbastanza bene. Il prodotto interno lordo del 2011 si è contratto solo dello 0,7%, un dato migliore delle previsioni, dopo che oggi il PIL del quarto trimestre è stato rivisto al rialzo da meno 0,6 a meno 0,2%, grazie a un più forte aumento degli investimenti di capitali. Sono le imprese che si preparano all'atteso aumento della domanda legato al dispiegarsi delle ingenti spese per la ricostruzione. Così l'economia nel 2012 dovrebbe crescere, secondo le attese, tra l'1,5 e quasi il 2%, al top tra i paesi avanzati. Oggi però è arrivato anche un campanello d'allarme. A gennaio il paese ha accusato un deficit mensile record delle partite correnti a 437,3 miliardi di yen. È il primo deficit da 3 anni, un deficit che da molti considerato temporaneo, ma che segnala il rischio di future difficoltà del paese a finanziare un debito che è il più alto tra quello dei paesi avanzati. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Tokyo. Il magnate messicano delle comunicazioni Carlos Slim si conferma per il terzo anno consecutivo come l'uomo più ricco del mondo, con un patrimonio di 69 miliardi di dollari. Secondo l'annuale classifica di Forbes, al secondo posto c'è ancora il fondatore di Microsoft Bill Gates, 61 miliardi, Warren Buffett 44 miliardi. Per il quinto anno consecutivo il primo italiano in classifica è Michele Ferrero con 19 miliardi di dollari, seguito dal patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio e dallo stilista Giorgio Armani. Parliamo ora dell'iPad presentato dalla Apple in California. A quasi 2 anni dall'arrivo del primo iPad, aprile 2010, l'Apple rinnova il proprio tablet e lancia la terza edizione, che sarà nei negozi americani dal 16 marzo e in un gruppo di altri paesi, Italia compresa, dal 23. Questa volta le anticipazioni e le indiscrezioni dei giorni scorsi sono state tutte o quasi confermate e le novità non sono dirompenti. La più interessante e la più visibile è un display ad alta definizione 2048x1536 pixel, una risoluzione mai vista su uno schermo di un tablet, processore più potente, fotocamera migliorata e connessione 4G, ottima per le nuove reti americane, per ora inutile in Europa. Per il resto, stessa forma, stessi prezzi. In effetti, perché cambiare un prodotto di grande successo, accorciandone quindi la vita commerciale? Mentre tra gli smartphone iPhone cresce meno della piattaforma Android, che ormai ha la metà della torta, nei tablet non c'è storia. Apple ha 2/3 del mercato e i dati ricordati da Tim Cook, il nuovo capo dell'Apple, chiariscono bene il contesto. We sold almost 15.5 million iPads just last quarter alone. Nell'ultimo trimestre, complice anche il Natale, Apple ha venduto 15,4 milioni di iPad, più di quanti computer abbia venduto qualsiasi singolo produttore di PC. Then any PC manufacturer sold. HP, ad esempio, ha consegnato 15,2 milioni di pezzi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parte con una sensibile flessione dei consumi il 2012, secondo i dati di Confcommercio. L'indice segnala a gennaio del 2012 una riduzione dell'1% in termini tendenziali e dello 0,5% rispetto a dicembre. Le famiglie italiane, alle prese dunque con la crisi, tagliano sui consumi, ma continuano a comprare telefonini e si affidano a giochi e lotterie per risalire la china. E siamo al calcio. Straordinario Lionel Messi, il fenomenale argentino del Barcellona, ieri sera ha messo a segno un altro record. Beh, sono in buona compagnia, grazie a Dio. Non rinuncia all'ironia José Altafini nel commentare l'insolito privilegio che la storia del calcio gli ha regalato. Lui, che 5 gol in una gara di Coppa Campioni li segnò nel lontano 1962-63 con la maglia del Milan, al microfono di Sky in telecronaca a raccontare l'impresa sul prato del Camp Nou di Lionel Messi, che intanto ne rifilava 5 al malcapitato Leno, portiere del Bayer Leverkusen. Preferibilmente con l'amato sinistro, ma senza disdegnare anche il destro. La Pulce ha segnato così in tutti i modi, diventando quindi il primo a far cinquina nella storia della Champions League. Ma l'immagine più bella è arrivata al fischio finale, col 7-1 conclusivo stampato sugli schermi del Camp Nou. Tutto intorno l'apoteosi e lui, Leo, a centrocampo a stringere le mani e a tenere sotto braccio il pallone, suo amico fidato e souvenir di un'altra notte impossibile da dimenticare. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Esce domani L'ABA, Educazione Criminale, il film di Guido Lombardi, Leone del Futuro, all'ultima mostra di Venezia. Verrà presentato stasera al Modernissimo di Napoli, con il cast composto quasi tutto da attori dilettanti africani e napoletani. Il film racconta fra l'altro la strage degli immigrati africani nel 2008 a Castel Volturno. Sentiamo Guido Lombardi al microfono di Marta Cagnola. Castelvolturno è, diciamo, la più clamorosa, perché è anche credo la comunità più grande che c'è in Italia come concentrazione di africani. Ce ne sono 20.000 e pare che la metà siano clandestini, ma esistono tante altre piccole Castelvolturno, la stessa Rosarno, dove poi l'anno successivo si è verificato quell'episodio che è diventato subito oggetto di cronaca. È una piccola Castelvolturno. Purtroppo sono realtà che esistono, delle quali non si parla mai, se non quando succedono questi eventi, diciamo, tragici. Non si vuole parlare di queste cose che comunque esistono un po' ovunque in Italia, queste sacche che sono poi fatte di clandestinità, sfruttamento e silenzio. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberto Scaltritti. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.